Ci sono parole e espressioni che, oltre al loro significato intrinseco, acquistano maggior valore se considerate nel loro contesto. L'ho capito quando ho esaminato l'espressione «grande è la tua fedeltà», riferita all'Eterno, cioè la divinità dell'Antico Patto. Per prima cosa sono rimasto stupito di trovarla in uno dei più tristi libri scritti dai profeti, il Libro delle Lamentazioni, nel quale il profeta Geremia si duole della grandissima sciagura avvenuta alla città e agli abitanti di Gerusalemme. Infatti Geremia ricorda come la città sia stata distrutta e gli abitanti abbiano provato immani sofferenze al punto che delle donne hanno cotto e mangiato i loro figli. Mi chiedevo dove stava la fedeltà di Dio in tutto questo, ma il profeta la esprime con le seguenti parole. Questo voglio richiamare alla mente e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Dinella M 3.2123. È meraviglioso che un uomo sia capace di parlare della grande fedeltà di Dio nel periodo più buio della storia di un popolo. Per comprendere la situazione, si deve pensare a qualcuno che avesse parlato della fedeltà di Dio quando Berlino fu distrutta dai bombardamenti, o quando il paese di Monte Cassino durante la guerra fu raso al suolo. Proprio per questo, quando nella parola di Dio leggo espressioni o concetti che mi sembrano sconnessi con il contesto, sono maggiormente stimolato a cercare di comprendere ciò che lo scrittore vuole comunicare. Poiché gli scrittori seguono un indubbio filologico, però, non sempre per me facile da afferrare. Una di queste espressioni che per molti anni mi ha dato molto da pensare si trova in uno dei brani, ritenuto un capolavoro di letteratura, e cioè nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, il capitolo dell'amore, il quale per me costituiva una sfida a motivo dell'argomento trattato. Dopo aver parlato della necessità dell'amore per ogni dono che si esprime e per ogni altra cosa, dopo aver specificato che l'amore non è un melenso sentimento o un forte impulso sentimentale, l'Apostolo Paolo introduce un ragionamento in apparenza decisamente sconnesso riguardo a tutto il resto del suo discorso, ma che invece mi ha rivelato un aspetto molto molto importante, anzi determinante, della vita considerata nel suo insieme. Ecco il suo ragionamento in merito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. 1 Co 13.11. Cosa c'entra il bambino con un ragionamento improntato sull'amore? Occorre dirlo subito. L'amore è tanto conosciuto quanto è potente. Perciò, un bambino non è in grado di amare come può fare un adulto. Perché è meno, come disse lo psicologo Eric Fromm, l'amore, non una piacevole sensazione o qualcosa in cui imbattersi in modo fortunato, ma è un'arte. Arte che si impara nel corso della vita mediante lo sforzo, saggezza, ma soprattutto maturità. Perciò ogni tentativo di amare è destinato a fallire se non si cerca di sviluppare più attivamente la propria personalità. E la soddisfazione nell'amore individuale non può essere raggiunta senza la capacità di amare il prossimo con umiltà, fede e coraggio. Senza queste virtù è impossibile amare. Come può dunque amare un bambino che vede la realtà delle cose e le persone solo in termini di soddisfazione e frustrazione dei bisogni corporali? Tutte le sue esperienze con l'esterno sono sintetizzate in un'unica esperienza. Sono amato per ciò che sono, oppure perché sono. Non ci è niente che debba fare per essere amato. Tutto ciò che deve fare è essere. Devono passare molti anni prima di raggiungere la maturità dell'amore, quando scopre che l'altra persona non è più il mezzo per soddisfare i suoi bisogni e che i bisogni degli altri sono importanti quanto i suoi, fino a realizzare che i bisogni altrui sono più importanti dei suoi. Questo è l'amore. Così, da un amore infantile che segue il principio «amo perché sono amato» o «amo perché ho bisogno di te», l'adulto ha un amore maturo che dice «sono amato perché amo», oppure «ho bisogno di te per amarti». Questo modo psicologico di relazionarsi con la vita si riflette inevitabilmente nelle relazioni fraterne, nelle quali il credente rimasto bambino a livello emotivo vede la Chiesa e il fratello in fede come un mezzo per ottenere la soddisfazione dei suoi bisogni. Ecco perché l'Apostolo Paolo inserisce nel discorso dell'amore che è paziente, benevolo, che non si vanta, non si gonfia, che non si comporta in modo sconveniente, che non cerca il proprio interesse, che soffre ogni cosa e sopporta ogni cosa. La necessità di cambiare atteggiamento mentale e modo di parlare, e per questo trova indispensabile smettere le cose da bambino, perché tale atteggiamento dovrebbe essere un atto di amore nei confronti del prossimo. Se amare significa che i bisogni degli altri sono almeno importanti quanto i tuoi, allora non ti limiti solo ad essere felice per quello che fai o dici, ma tieni anche in grande considerazione come il fratello percepisce il tuo essere credente. Non si nasce adulti. Si diventa. È normale quindi che all'inizio della vita cristiana il credente si comporti da bambino, ma non è per nulla normale rimanere tale, cioè essere affetto da infantilismo. Quel comportamento che induce l'adulto ad avere caratteristiche fisiche e psichiche da bambino. E infantilismo quando per debolezza, leggerezza o mancanza di energia si teme o si rifiuta di misurarsi con le responsabilità che vengono stimate troppo gravose e smisurate. E infantilismo quando ci si lascia tutelare dal padre e dalla madre o dalle persone che li sostituiscono. E infantilismo quando ci si aspetta tutto nella vita meno come un tempo dal padre o dalla madre meno e non si dà in cambio niente alla vita. Com'è infantilismo il rifiuto della responsabilità nelle fasi della vita nelle quali da tempo si sarebbe dovuto afferrare saldamente il timone? Alcuni psicologi sostengono che la radice di tutte le nevrosi sta nell'infantilismo, cioè nel rifiuto di diventare pienamente adulti e con ciò pienamente responsabili. Queste valutazioni prese sul serio danno la spiegazione del malessere che pervade la società di oggi, ripercuotendosi anche sui credenti. I credenti all'inizio del XXI secolo sono disposti a pregare, cantare, leggere la parola di Dio, radunarsi insieme, ma con molta e grande difficoltà hanno il coraggio di accettare le conseguenze della loro professione di fede o delle loro convinzioni. Oggi prevale soprattutto l'obiettivo di non creare difficoltà, prevale l'armonia, l'essere d'accordo, non creare nemici di nessun genere. E anche se ciò ha un aspetto lodevole, tutto questo si raggiunge a discapito della verità. Non bisogna dimenticare mai che il principale scopo di Gesù è sempre stato quello di predicare la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Al punto da essere arrivato a crearsi nemici più numerosi dei capelli che aveva sul capo. Mancava forse di amore? Tutt'altro, il suo amore era responsabile, maturo, capace di far discernere tra sentimentalismo e amore fecondo. Occorre smettere di pensare meno come fanno i bambini, meno che il bene sia sempre ciò che piace o ciò che sia gradevole, perché con queste convinzioni nessuno è in grado di comprendere l'amore di Dio e la vita stessa. È arrivato il momento di smettere di avere un concetto idolatrico di Dio per accettare, come è scritto nella parola di Dio, che il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Ebi 12.6. Se diamo peso alle parole, essere flagellati meno, cioè essere colpiti con forza da una sferza meno, non piace a nessuno. Eppure, Dio si comporta così con chi ama e gradisce. Ma l'infantilismo denunciato da Paolo ai credenti della città di Corinto era rivolto al comportamento che avevano fra di loro. Come bambini avevano delle banali divisioni dovute al fatto che qualcuno apprezzava un apostolo più che un altro, come se un apostolo fosse tale per sua capacità. Come bambini apprezzavano più un oratore per le sue capacità oratorie che per il contenuto del messaggio, o per la potenza con la quale lo esponeva. Sempre come bambini, preferivano agire egoisticamente e parlare in lingue, piuttosto che cercare di edificare il fratello che gli stava accanto. Inoltre, facevano tanto gli spirituali che tolleravano dell'immoralità nella loro comunità, immoralità che gli increduli neppure imitavano. Che dire poi del fatto che fra di loro vi erano dei processi al punto che un credente processava un altro credente davanti a dei tribunali di increduli per giudicare le loro questioni. Il colmi dei colmi era poi che fra di loro vi erano degli adulteri, dei gay, degli avari e degli ubriaconi. Com'è possibile che dei credenti con la fede in Cristo abbiano questi comportamenti contraddittori al messaggio del Vangelo? Perché erano ancora dei bambini, perché l'infantilismo regnava nella loro mente e nelle loro parole, e per questo Paolo fa presente che se non volevano cambiare perché era giusto cambiare, almeno lo avessero fatto per amore. Perché l'amore proclama con un megafono megalattico: quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Diventare uomo, ecco l'obiettivo dell'amore. Si potrebbe rimanere infantili per pigrizia, si potrebbe non assumersi nessuna responsabilità per interesse, ma l'amore ci fa uscire fuori dal nostro egoismo e tendere a agire per il prossimo. Ricordo ancora vivamente quando mio figlio Davide era nella fase della pubertà e, rendendosi conto di cosa comportasse il diventare adulto, disse tutto sconsolato: «Non vorrei mai diventare grande». Eppure, quando si innamorò di colei che divenne poi sua moglie, non solo desiderò diventare grande, ma fu anche pronto ad assumersi ogni responsabilità per vivere con colei che amava. Cosa può fare l'amore? È vero che l'infantilismo bussa del continuo alle nostre porte, ma è anche vero che l'amore è la forza più potente che esista in questo mondo e in quello a venire. E chi ci crede può dire con il saggio Salomone: l'amore è forte come la morte. Le sue fiamme sono fiamme di fuoco. Una fiamma ardente. Cantico 8.6. Una fiamma che brucia ogni residuo dannoso di infantilismo. Che Dio sia benedetto. Novembre 2007. Elbero.